Ed eccoci di nuovo in diretta. Siete sempre all'ascolto di Attimi Sfatti. E niente, dopo che ci ha anche aiutato con la sua voce molto bella, devo dire, a leggere il comunicato di Donna Lisa, adesso vorremmo fare quattro chiacchiere con te. Dai, facciamo quattro chiacchiere. Facciamo quattro chiacchiere. Allora, non è un caso che Federica è qui. E Federica è qui perché ci ha mandato una mail, ci ha raccontato che stanno partendo questi corsi di autonarrazione. E siccome è un tema che anche noi, insomma, a cui teniamo tanto, e come concetto, come idea ci piace molto, abbiamo detto: via, dai, vieni a trovarci alla riapertura del martedì, così ne parliamo un po' tutte ai microfoni. E quindi la prima domanda è: che cos'è l'autonarrazione? Ok, prima di rispondere a questa domanda difficilissima, così in poche parole, volevo dirvi che l'idea di chiamarmi mi è venuta quest'estate, mentre stavo a Lesbos insieme a delle amiche, chiacchieravamo sulla spiaggia. A un certo punto un'amica mi fa: ah, ma te che scrivi sempre questa roba che riguarda la tua vita, però non è che sei una vera scrittrice, perché i veri scrittori scrivono di altri, si inventano delle storie, non te la sai inventare una storia come i veri scrittori? E è partita questa discussione che è andata avanti per parecchio, e stavo riflettendo sul fatto che questo dato del personale politico, dell'autonarrazione come narrazione di sé, ma anche di possibilità di rivendicare la propria storia, scrivere la propria storia, inventare la propria storia, cioè essere a modo proprio, è tipicamente femminile, qualcosa che abbiamo portato noi. Com'è possibile che io a Lesbos devo discutere con delle donne sul fatto che non sono una vera scrittrice se mi occupo di autobiografia? E quindi ho detto: questo è un tema che voglio affrontare con le ragazze della radio, mi sembrava giusto. Ed eccoti qua a raccontarci di che cos'è appunto quello che dovremmo un po' conoscere meglio, l'autonarrazione, che è uno strumento politico, evidentemente. È uno strumento politico, secondo me è uno strumento politico perché è uno strumento innanzitutto personale. Cioè, l'autonarrazione può essere tante cose, ci sono tanti modi per farla. Secondo me la prima cosa fondamentale e anche molto difficile è guardare la propria vita. Cioè, noi viviamo la nostra vita, noi siamo, noi affrontiamo le cose, affrontiamo i problemi, però non guardiamo bene che disegno stiamo facendo mentre ci spostiamo. Mi viene sempre in mente questa storia di Karen Blixen, che racconta Nella mia Africa, che c'è questo tipo nella notte che si sveglia perché c'è un laghetto che perde acqua, i pesci saltano da tutte le parti, lui deve sbrigarsi per riparare la falla, allora corre giù, comincia a fare su e giù per vedere dov'è il problema, non si vede niente, quindi inciampa da tutte le parti, poi finalmente riesce a trovare il problema. È quasi l'alba, torna a dormire e la mattina dopo si affaccia alla finestra, guarda giù verso il laghetto e vede che i passi che ha fatto durante la notte, le orme che ha lasciato sul terreno bagnato, tracciano il disegno di una cicogna. E Karen Blixen chiude questa storia dicendo: prima di morire potrò vedere il disegno della mia vita. Secondo me vedere il disegno della propria vita è molto importante, è totalmente arbitrario, perché chiunque da dentro ci poteva vedere una cicogna oppure un albero oppure una medusa, però è il tuo disegno, è la tua invenzione, è quello che tu decidi che stai facendo, quello che decidi che sei. Nel momento in cui lo scrivi è quel disegno là, dopodiché per rifarlo da capo dovrai scrivere una nuova narrazione, dovrai ricominciare da capo, ma quello in quel momento è la tua definitiva antropologia, non solo su di te ma sul mondo, è quello che pensi che sia il mondo, per cosa vale la pena vivere, per cosa vale la pena morire. Ci sono tutte cose che tu esprimi, anche non direttamente, ma raccontando certe storie piuttosto che altre, dando forza ad alcuni personaggi, riflettendo su alcune cose che ti sono successe. Quindi attribuirti il diritto di decidere: questa è una cicogna, è la mia vita, porta la mia nuova vita, secondo me è il primo passo, ed è da qua che si parte, secondo me, per l'autonarrazione. Io penso, cioè, da appassionata di musica, poi tra l'altro l'autonarrazione, cioè il racconto di se stesse attraverso le parole, insomma, nella musica è uno strumento fondamentale, no? Ci sono tantissime artiste, ma anche artisti, però insomma parliamo delle artiste che in qualche modo, qualunque sia il genere musicale che utilizzano, dall'hip hop al folk o a qualsiasi altro genere musicale, insomma spesso ricorrono al racconto di se stesse, alla trasformazione, a quello a cui vanno incontro come donne, come artiste, come individui, fondamentalmente per raccontarsi anche in chiave un po' più in una forma letteraria diversa, ma che comunque è una forma letteraria. Quindi sono d'accordo con te. in realtà l'autonarrazione è uno strumento fondamentale. Sì, poi nelle canzoni succede questo, la canzone è più lirica, no? Nel senso che comunque è un'espressione, poi ci sono testi più poetici, meno poetici, più politici, comunque è una narrazione sicuramente più lirica. Sostenere un'autonarrazione in prosa è molto complicato, perché ma per un motivo proprio tecnico, perché noi diamo per scontato che quella storia l'abbiamo vissuta, siccome l'abbiamo vissuta la conosciamo e siccome la conosciamo la sappiamo raccontare. Di fatto ti capita, no, che ti faccio leggere questa cosa che ho scritto, dimmi che ne pensi, e tu sei la porca miseria, mo come glielo dico, una noia micidiale, e, oppure che non la vedo, che non la sento, che sento che c'è un magma là dentro che ci sta soffrendo, che è roba proprio che la tocca ma a te non t'arriva. Quindi è di nuovo quel passo di distanza, no? Quel passo indietro proprio di prospettiva, che nella prosa è molto più necessario secondo me che in una canzone, perché in una canzone un grido lo sosteniamo, in una prosa sosteniamo un grido, ma poi devi un po' sapere come funziona una storia, cioè proprio la struttura della storia. Ci sono persone che hanno lavorato tantissimo sulla griglia della storia, come funzionano le storie del mondo, come mai tutte le favole hanno degli archetipi che sono sempre quelli, delle strutture che tornano e ritornano, dei moduli, perché l'essere umano da sempre quando si racconta storie se le racconta in un certo modo. Secondo me confrontare la propria storia, l'episodio che vuoi raccontare, la tua storia d'amore con l'archetipo di una storia, innanzitutto ti aiuta a capirla un po' meglio, perché io almeno non è che sempre la capisco mentre vivo, anzi non ci capisco niente, solo quando mi fermo e provo a farla diventare altro che comincio a rendermi conto di, per esempio, di energie che ho messo in ballo io e che non ero cosciente di aver usato. Bello. Quindi è un'autonarrazione ma anche un racconto che fai poi a te stessa, nel senso in qualche modo conosci una te come che la in qualche musica. Modo è già stata raccontandoti. Non è possibile questo? È un momento perché non siamo la storia che ci raccontiamo. Certo. Io credo che noi siamo quella storia. A noi voglia. Siamo talmente quella storia che poi di solito selezioniamo le cose che confermano la storia che crediamo di essere. Ci prende un colpo quando qualcuno viene e dice: guarda che potrebbe anche essere diverso. Forse è la cosa che. Almeno. Ma guarda che non ti ricordi bene. Esatto. Che secondo me modifichiamo, no, secondo me, poi lo si dice, si modifichiamo anche i ricordi dopo tanti anni, in base appunto poi al disegno che abbiamo anche inconscio forse di noi, quindi modifichi pure i ricordi a un certo punto, perché nel racconto che stai facendo devono funzionare in quel modo, devono essere in quel modo, perché io per esempio sono favorevolissimo a questo processo, a patto che sia cosciente. Ah, certo. Nel senso che noi secondo me lo facciamo in modo inconscio, appunto per confermare un'idea di noi che poi se andiamo bene a analizzarla, chi ce l'ha messa in testa, da dove è venuta, non sono proprio sicura che me la sono scelta io, che da piccola ho detto ok, io sono così, così, così. Se invece è cosciente, anche questa azione di falsificare fatti, di falsificare come è andata, o di tagliare un po' qui, un po' lì. Sì, o di trovare quello che io chiamo un equivalente semantico, cioè a volte per dire una grande verità c'è bisogno di dire una bugia. Non, quel fatto non è accaduto proprio così, non è andata così, però quella cosa che sto esprimendo è proprio quella verità emotiva che io voglio dire, secondo me la posso dire meglio così. Poi tutta la letteratura si fonda su questi equivalenti semantici, quindi anche poterti riappropriare della possibilità del falso, di modificare la tua identità, perché comunque a un certo punto la storia è tua e decidi tu come ti vuoi rappresentare nel mondo, secondo me è uno strumento potentissimo di libertà. Beh, insomma, mi sembra chiaro che cos'è l'autonarrazione, come la possiamo utilizzare. Questo stavo pensando, bene. È vero che tu hai pensato e stai pensando di fare anche un corso su questo, giusto? Sì, sì, sto facendo. Quindi, un corso. Quindi le ascoltatrici che ci sentono e che in questo momento si sono intrigate alla faccenda, diciamo, cosa possono fare? Cioè, ci sono, appunto, perché tu dicevi che poi bisogna anche un po' conoscerlo questo linguaggio e questo strumento della scrittura per rendere anche l'idea che hai, appunto il racconto che vuoi fare, la narrazione che vuoi fare, e quelle cose si imparano tra virgolette, cioè nel senso si imparano, ti confronti anche con come hanno risolto certi problemi alcuni scrittori. Per esempio io penso sempre a Gertrude Stein, una figura che amo tantissimo. Lei aveva un problema gigantesco, cioè come fare a far sapere al mondo che lei era un genio. Ci ha provato scrivendo dei libri geniali, però tipo un giorno a casa gli è arrivato questo inviato di una casa editrice a pagamento a cui lei aveva mandato i soldi per pubblicare presentare il suo libro e gli dice: guarda, il direttore ha detto se potessi un po' rivedere le bozze, perché forse non parli bene l'inglese, vero? Ah, come no, io sono americana. Ma noi pensavamo che parli l'inglese. Eh sì, sono madrelingua americana. Ma perché forse comunque ci sono degli errori di battitura? E lei dice: no, guarda, non c'è nessun errore, tutto quello che verrà pubblicato è sotto la mia responsabilità. Cioè, fondamentalmente non avevano capito quel linguaggio generativo di cui lei era così fiera, che diceva sarà come la rivoluzione di Picasso nell'arte, sarà nella letteratura. E quindi aveva questo problema: come lo faccio capire a questi qua che io sono un genio? Non lo poteva dire, perché se lo diceva non la capivano. E un bel giorno, dopo anni di amarezze, di rifiuti tipografici, editoriali, eccetera eccetera, ha avuto questa idea fantastica, ha detto: ok, lo farò dire alla donna con cui vivo. E quindi ha scritto l'autobiografia di Alice Toklas, che in realtà è una falsa autobiografia, perché lei scrive fingendo di essere Alice Toklas. E per tutto il libro Alice Toklas inizia proprio così: io nella mia vita ho conosciuto tre geni, e li nomina, chiaramente c'è Gertrude Stein fra loro. Quindi la soddisfazione di poter dire di sé, di potersi raccontare come grande, di potersi osservare attraverso lo sguardo di una donna che le era fondamentale, ma che era un po' lo sguardo comune: una giardiniera, una cuoca, compagna di vita, molto pratica, organizzava le cene eccetera eccetera, ma che la guardava con quegli occhioni con cui noi guardiamo i geni, beh, è stata la più grande rivincita della sua vita. Bene, quindi chi volesse avere delle informazioni, poter insomma entrare più nello specifico di questo corso, o comunque appunto di quello che può fare per contattarti? C'è questo strumento così un po' orribile, ma che comunque usiamo tutti, che si chiama Facebook. Ho una mia pagina Facebook, quindi Federica Tuzzi con una Z sola, e là sopra c'è scritto tutto. Comunque iniziamo il 21 ottobre e sarà ogni lunedì dalle 19 alle 21 al Pigneto. Ok, quindi il 21 ottobre, quindi chi vuole o la cerca nei meandri della rete oppure cammina a piedi per il Pigneto e chiede di Federica Tuzzi con una Z. Intanto noi ci riserviamo, diciamo, un'opzione per riaverti qui con noi presto, insomma, sia per parlare di letteratura, visto che ci ha fatto molto piacere. Potremmo parlare di autonarrazioni femminili, sarebbe molto carino. Voilà, ecco. È andata. Dovrete ascoltare ancora e ancora per scoprire appunto che cosa succederà al martedì autogestiva femminista e lesbica. Forse a breve parleremo appunto anche di autonarrazione. Un po' di musica adesso, sì. E poi Lesbiche fuori salone e Samplifier Cake. Intanto ringraziamo Federica, grazie mille per esserci venuta a trovare e speriamo di riaverti presto ai nostri microfoni. Grazie a voi. Ciao.